Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Knecht, se ci è lecita un'anticipazione, fece un'esperienza caratteristica. All'inizio della sua attività ufficiale di Ludi Magister, era esclusivamente in contatto con l'élite, con lo strato superiore della sua scolaresca, coi ripetenti, taluni dei quali erano suoi coetanei, mentre ognuno era già un giocatore fatto e formato. Soltanto a poco, quando fu sicuro dell'élite, incominciò a sottrarle di anno in anno, ad agio e con cautela, un po' di tempo e di energia, finché poté affidarla temporaneamente ai suoi fiduciari e collaboratori. Questo processo durò alcuni anni e da un anno all'altro, nelle lezioni, nei corsi e nelle esercitazioni da lui dirette, Knecht risalì sempre più indietro, a strati più lontani e più giovani di allievi. Infine, cosa rara in un Ludi Magister, tenne personalmente e più volte i corsi per i più giovani principianti, per alunni dunque e non ancora studenti, e vide che quanto più gli alunni erano giovani e ignoranti, tanto più gioia gli dava l'insegnare. Certe volte, nel corso di quegli anni, sentì perfino disagio e notevole sforzo nel ripassare da quei giovani e giovanissimi agli studenti o addirittura all'élite. Anzi, talvolta avrebbe voluto risalire ancora più indietro e fare la prova con alunni ancora più giovani, per i quali non esistevano né corsi né gioco delle perle. Era capace di augurarsi di insegnare a Eschols o in qualche altra scuola preparatoria il latino, il canto o l'algebra ai ragazzini, in un ambiente dove lo spirito entrava ancor meno che nei primissimi corsi del gioco delle perle, dove però avrebbe avuto a che fare con alunni più aperti, più plasmabili, più educabili, dove educazione e insegnamento erano in modo più intimo, una cosa sola. Una volta, scherzando, disse a Fritz: «Ci sono stati principi che, per tutta la vita, si sono tormentati con un amore infelice per i loro sudditi. Il loro cuore li spingeva verso i contadini, i pastori, gli artigiani, i maestri di scuola e gli alunni, ma raramente vedevano costoro, perché erano sempre circondati da ministri e ufficiali che formavano come un muro tra loro e il popolo. Così accadde al Magister. Egli vorrebbe avvicinarsi agli uomini e vedere soltanto colleghi. Vorrebbe scendere agli scolari e ai bambini e vede soltanto studiosi e appartenenti all'élite». I faggeti sopra Waldzell incominciavano a ingiallire allorché Knecht scese un giorno con un libretto nel giardino accanto alla sua casa, quel bel giardinetto che il defunto maestro Thomas aveva avuto tanto caro e spesso aveva curato con amorose mani oraziane. Siccome all'ombra faceva già fresco, portò una leggera sedia di vimini in un punto soleggiato, sedette e aprì il libretto che aveva con sé. Era il calendario tascabile per il Ludi Magister, che circa 70 o 80 anni prima era stato compilato da Ludwig Wassermaler, maestro del gioco delle perle di allora, e da quel tempo in poi aveva subito da tutti i successori correzioni e aggiornamenti, tagli o aggiunte. Knecht cercò la pagina della settimana corrente e la lesse con molta attenzione. Non vi trovò nulla di inaspettato, ma in fondo al capitolo lesse queste righe. Incomincia a rivolgere il pensiero al prossimo gioco annuale. Sembra presto, anzi, a te potrebbe sembrare esageratamente presto. Tuttavia ti consiglio, qualora tu non abbia già in mente un progetto per il gioco, non lasciare che trascorra da oggi in poi una settimana, né tantomeno un mese, senza rivolgervi il pensiero. Prendi nota delle tue idee. Ripassa, quando hai mezz'ora libera, lo schema di un gioco classico. Preparati, non con la pretesa di concepire per forza qualche bella trovata, ma col riflettere spesso, da oggi in poi, che nei mesi venturi ti aspetta un compito bello e festoso, per il quale devi raccoglierti, trovare energie e creare l'atmosfera. Queste parole erano state scritte, forse tre generazioni prima, da un vecchio saggio, maestro nell'arte sua, in un'epoca in cui il gioco delle perle aveva forse raggiunto la più alta perfezione formale, poiché allora i giochi avevano toccato una grazia decorativa e una ricchezza di esecuzione paragonabili all'architettura del tardo gotico e del rococò. Di fronte a quel vecchio saggio, a quell'esperto consigliere, Knecht provò non solo rispetto e gratitudine perché il suo calendario gli era stato spesso una guida preziosa, ma ebbe anche un senso di superiorità gaia, allegra e persino orgogliosa, la superiorità dei giovani. La breve sosta nel giardino e la lettura del calendario avevano dato i loro frutti. Non solo un ristoro e uno sprazzo di aumentata gioia di vivere, ma anche due idee che, nel medesimo istante, già si concretavano in decisioni. La prima, quando anche lui fosse vecchio e stanco, intendeva deporre la carica nel momento in cui la composizione del gioco annuale gli dovesse sembrare un dovere molesto ed egli si fosse trovato a corto di idee. La seconda, presto avrebbe incominciato i lavori per il suo primo gioco annuale. A compagno e primo aiutante, avrebbe chiamato Fritz Tegularius, procurandogli una gioia e una soddisfazione, mentre per lui stesso sarebbe stato un tentativo di ridar forma vitale a quell'amicizia paralizzata. La spinta non poteva venire da Fritz, ma doveva necessariamente partire da lui, dal Magister. Fritz avrebbe avuto anche troppo da fare. Fin dal tempo di Maria Fels, Knecht aveva in mente un'idea che ora intendeva sfruttare, come Magister, per il suo primo gioco solenne. La base di questo, ecco la graziosa idea, in quanto a struttura e dimensioni, doveva essere data dal vecchio schema rituale confuciano dell'architettura cinese. L'orientamento, secondo i punti cardinali, i portoni, il muro degli spiriti, i rapporti, la destinazione degli edifici e dei cortili, il loro accoppiamento con gli astri, col calendario, con la vita familiare e, in aggiunta, il simbolismo e le norme stilistiche del giardino. Il giorno dopo, vedendo che l'ora riservata ai colloqui terminava in anticipo, mandò a chiamare Tegularius. Appena arrivato, questi fece l'inchino con l'espressione volutamente umile e devota che aveva assunto negli ultimi tempi di fronte a Knecht, e rimase stupito quando il Magister, che si era fatto laconico e parco di parole, lo salutò con aria arguta e domandò: «Ricordi ancora i nostri anni di studenti? Quando ci trovammo quasi a litigare perché non riuscivo a convertirti al mio pensiero. Si discuteva del valore e dell'importanza degli studi orientali, particolarmente del cinese, e io volevo che anche tu frequentassi l'istituto e imparassi quella lingua. Ricordi?» «Ebbene, oggi mi rammarico un'altra volta di non aver saputo indurti a mutar parere. Che bella cosa sarebbe se tu comprendessi il cinese. Potremmo compiere insieme un lavoro meraviglioso.» Così continuò per un poco a stuzzicare la curiosità dell'amico, finché sfoderò la proposta. Desiderava incominciare presto la preparazione del grande gioco e Fritz, se gli faceva piacere, poteva eseguirne una gran parte. L'altro lo guardò quasi incredulo, molto sorpreso e deliziosamente turbato dal tono allegro e dal sorriso dell'amico, nel quale ormai scorgeva soltanto il suo maestro e signore. Contento e commosso, sentì non solo l'onore e la fiducia che la proposta esprimeva, ma intuì e afferrò soprattutto il significato di quel gesto. Era il tentativo di guarirlo, di riaprire la porta che si era chiusa fra lui e l'amico. Non diede importanza al cinese e si disse disposto, senz'altro, a mettersi a completa disposizione del reverendo e del suo gioco. Nelle poche ore libere, Knecht schizzò e compose il gioco insieme con Tegularius, affidando a quest'ultimo tutte le ricerche d'archivio, come pure la prima e la seconda stesura. Col nuovo contenuto, la loro amicizia riacquistò forma e vita, e anche il gioco al quale lavoravano subì qualche variante aggiunta per la singolarità e la sofistica fantasia di quello originale. Fritz era di coloro i quali, mai soddisfatti ma di poche pretese, intorno a un mazzo di fiori o a una tavola imbandita, che per chiunque altro sarebbe perfetta, trovano da lavorare ore e ore con irrequieto compiacimento e con ritocchi amorosi senza fine, e sanno trasformare il più piccolo lavoro in un'occupazione di giorni, seguita con diligenza e intimo fervore. Anche negli anni successivi si continuò nello stesso modo. Il gioco solenne fu di volta in volta opera di entrambi e costituì per Tegularius una doppia soddisfazione: di dimostrarsi utile e anzi indispensabile all'amico e maestro in una circostanza così importante e di assistere alla pubblica celebrazione del gioco come collaboratore non nominato, ma ben noto all'élite. Nel tardo autunno del suo primo anno, mentre Fritz si dedicava ancora ai primi studi sulla Cina, il Magister, scorrendo un giorno rapidamente gli appunti del diario della sua cancelleria, trovò questa annotazione: «Lo studente Petrus di Monteporta arriva raccomandato dal Magister Musiche. Reca i suoi saluti particolari e chiede di poter frequentare l'archivio. È alloggiato nella foresteria per studenti». Mandò quindi a chiamare lo studente. Domandò quali incarichi gli avesse dato il vecchio maestro. «Saluti», rispose lo studente. «Saluti molto cordiali e rispettosi per voi, venerabile, e anche un invito». Knecht pregò l'ospite di accomodarsi E questi soggiunse, scegliendo accuratamente le parole: «Il venerabile Magister Musiche mi ha raccomandato vivamente, come ho già detto, di recarvi i suoi saluti. Ha anche espresso il desiderio che andiate a trovarlo presto, se potete. Vi invita, o almeno vi suggerisce, di fargli visita prossimamente, premesso ben inteso che la visita possa essere compresa in un viaggio di servizio e non vi rechi troppo disturbo. Questo è pressappoco l'incarico che ho ricevuto». Knecht rimase sopra pensiero. Poi disse: «Bene. E perché non mi hai trasmesso per iscritto ciò che il vecchio maestro ti incaricò di dirmi, come sarebbe stato giusto?» Petrus sostenne lo sguardo di Knecht e, sempre cercando le parole cautamente, riferì adagio, quasi dovesse esprimersi in una lingua straniera: «Non c'è alcun incarico, venerabile, e non c'è alcun messaggio scritto. Voi conoscete il mio venerato maestro e sapete che è sempre stato di una rara modestia». Knecht sorrise. «E la tua occupazione, mio caro, nell'archivio del gioco, era soltanto un pretesto?» «No, no. Vi devo fare estratti di alcune chiavi, perciò avrei dovuto chiedervi ospitalità comunque. Mi parve però consigliabile affrettare un po' il viaggetto». «Benissimo», fece il magister serio. «Si potrebbe sapere la causa di codesta fretta?» «Non posso rispondere, a meno che vogliate formulare la domanda in forma più precisa». «E sia», esclamò Knecht. «Sono dunque gravi le condizioni del vecchio maestro? Sono preoccupanti?» «Signor magister, state tranquillo. Il venerabile sta bene. E fino a poche settimane or sono, dava lezioni d'organo a due allievi ancora principianti perché, come sempre, i giovani gli sono più cari. Ma poiché ha rinunciato anche a quei due ultimi allievi, mi è parso di dover rilevare questo sintomo e da allora l'ho osservato un po' meglio e ho cominciato a riflettere. Evidentemente la richiesta vi ha suggerito il pensiero che egli fosse ammalato e fosse tempo finalmente di vederlo ancora una volta. Ebbene, credo in verità che sia tempo. È vero che il venerabile non sembra prossimo alla fine, ma il suo modo di prendere commiato dal mondo è certamente diverso da quello degli altri. Da alcuni mesi ha smesso quasi del tutto di parlare e si ha preferito sempre i discorsi brevi ai lunghi. Adesso è giunto a una brevità e ad un mutismo che mi danno non poco da pensare. Da principio, quando sempre più spesso lasciava senza risposta le mie domande, pensai che incominciasse a diventare tardo d'orecchio. Sente invece molto bene, come sempre. Ne ho fatto la prova. Allora dovetti ritenere che fosse distratto e non sapesse più concentrare l'attenzione. Ma nemmeno questo spiegherebbe la cosa. Piuttosto, mi sembra che già da tempo si sia messo, diciamo, in viaggio e non viva più interamente fra noi, ma in un suo mondo privato ed esclusivo. Infatti, sempre più di rado va a trovare o riceve qualcuno. Per giorni e giorni non vede altri che me. Da che è incominciato quel suo ritiro, quella sua assenza, mi sono sforzato di portargli ancora una volta i pochi amici che so essergli prediletti. Dunque, domine, se voleste venire a trovarlo, fareste molto piacere al vostro vecchio amico e ritrovereste ancora, fino a un certo punto, quello stesso uomo che avete venerato e amato. Tra alcuni mesi, forse anche tra qualche settimana, egli avrebbe già meno gioia di voi e meno interessamento alla vostra persona. Anzi, può anche darsi che non vi riconosca più, o almeno non vi presti attenzione». Thank you. quando entrarono nel padiglione in mezzo ai giardini dove abitava l'ex magister, un ritiro grazioso e sommamente tranquillo, udirono venire dalla stanza in fondo una musica delicata e tenera, ma ben ritmata e deliziosamente serena. Il vecchio suonava con due dita una melodia a due voci e Knecht indovinò all'istante che doveva essere un libro di vicini della fine del Cinquecento. Si fermarono finché la musica cessò. Poi Petrus chiamò il maestro e lo avvertì che era tornato, recandogli un visitatore. Il vegliardo si fece sulla soglia e li accolse sorridente. Quel sorriso che tutti ammiravano aveva sempre avuto una cordialità aperta e quasi infantile, una gentilezza raggiante. Questa volta però l'antico discepolo notò al di là di ogni dubbio che il radioso, affabile messaggio del vecchio volto sorridente, i cui occhi azzurri e le guance rosee avevano perduto con gli anni il loro splendore, non solo era quello di una volta, ma si era fatto ancora più assorto, intenso e misterioso. Soltanto ora, a quel saluto, Knecht incominciò davvero a capire in che cosa consistesse la richiesta dello studente Petrus e quanto egli stesso, pensando di sacrificarsi a quella richiesta, era invece beneficato. L'amico Ferromonte fu il primo col quale ne parlò. Il colloquio venne poi fissato in una lettera di Knecht. Oggi dunque arrivai dal vecchio maestro che non vedevo da 6 mesi e, a sentire il suo famulo, mi aspettavo poco o nulla da questa visita. Avevo paura che il vecchio venerato potesse presto abbandonarci all'improvviso e sono accorso per vederlo ancora una volta. Quando mi riconobbe e mi salutò, vidi illuminarsi la sua faccia, ma non disse altro che il mio nome e mi porse la mano. E anche quel gesto e quella mano mi sembrarono luminosi. Tutta la sua persona, o almeno gli occhi, i capelli bianchi e la pelle chiara e rosea, mi parve mandassero raggi pallidi e freddi. Sedetti accanto a lui, che congedò lo studente con un'occhiata e, da quel momento, incominciò la più curiosa conversazione che mi sia mai toccata. Da principio fu per me una cosa molto strana e deprimente, anche umiliante, poiché continuavo a rivolgere la parola al vecchio o a porgli domande alle quali rispondeva soltanto con un'occhiata. Dovetti stancarmi e naufragare coi miei tentativi pazienti e cortesi di avviare una conversazione, prima di incominciare a capire che il vecchio avrebbe saputo esercitare una pazienza, costanza e cortesia 100 volte maggiori delle mie. Sarà stato un quarto d'ora o mezz'ora, ma a me parve mezza giornata, sicché incominciai a diventare triste, stanco e di malumore, e a pentirmi del viaggio. Avevo la bocca arida. L'amico venerato si era trincerato come dietro un altro mondo, sotto altre leggi, e tutto ciò che veniva da me e dal nostro mondo, per entrare nel suo, scorreva via come la pioggia da un sasso. Infine, quando non avevo più speranza, abbatté la muraglia magica, mi aiutò e mi rivolse la parola. Furono le sole parole che gli udii pronunciare oggi. «Joseph, ti stancherai», mormorò con una voce impregnata di quella commovente e affettuosa gentilezza che tu conosci. E fu tutto. «Joseph, ti stancherai». Quasi mi avesse visto compiere da molto tempo un lavoro troppo faticoso e volesse darmi un consiglio. Pronunciò quelle parole con qualche fatica, come se da un pezzo non avesse più usato le labbra per parlare. Nello stesso tempo mi posò sul braccio una mano lieve, come una farfalla. Mi guardò in fondo agli occhi e sorrise. In quel momento mi vidi sconfitto. Un po' della sua serena tranquillità, della sua calma e pazienza, entrò in me ed improvviso mi parve di comprendere lui e il suo atteggiamento, quel suo allontanarsi dagli uomini e andare verso il silenzio, lungi dalle parole e verso la musica, lungi dai pensieri e verso l'unità. Compresi ciò che mi era dato di vedere, compresi quel sorriso radioso. Mi trovavo davanti a un santo che mi permetteva di assistere al suo splendore, davanti a un uomo perfetto che io, maldestro, pretendevo di intrattenere, di interrogare e di indurre a un colloquio. Per fortuna, non avevo aperto gli occhi troppo tardi. Avrebbe potuto anche allontanarsi e respingermi per sempre. In tal modo, avrei perduto l'esperienza più strana e stupenda che mi sia mai toccata. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.